Nel mare in tempeste con i piedi sull'erba, in transito in fuga da un mondo malato. È stato un piacere suonare per voi, nell'intrattenervi ci sono mutamenti. Svegliare coscienze è un'opera dura, è proprio per questo che serve una cura. Siamo il coro in una riforma, passando da gap al nome Farah.